Maria in acqua tiepida con un cucchiaio di bicarbonato. E stamattina era un gioiello, guarda, quando le cucinate. Ha capito Natalia, eh? Poi dici sempre fare dei magna. Allora, te l'immagino, adesso domani brodino di mammo tutti. Oh, boh. Ah, te l'avevo detto già, dell'assicurazione. No. Niente, mi ha trovato l'avvocato, eccetera, abbiamo parlato, mi ha detto che mi hanno offerto 425 euro, mi ha detto ma per le caramelle, ha detto no, per la moto, la moto era esattamente 1040 euro, però accetti con le 400, perché se mi chiedono, se mi chiede come anticipo, come mi sta chiedendo, cioè mi sta dicendo automaticamente vogliono la controrevisione, cioè la verifica, io la moto l'ho già venduta sul traiato, eppure non c'è problema con questi, accettiamo 400. Ma solo per la moto? Cappa. E beh, allora, innanzitutto loro il medico però, come si chiama, il medico legale me l'hanno mandato il giorno 23 gennaio. Questo di 400 euro, 425 euro, per la legge per la moto, l'ha mandato l'avvocato il giorno, mi sembra, 16 o 17, quindi molto prima, il medico legale manco la visa mi aveva fatto ancora, quindi ha detto l'avvocato non può essere quello lì, e beh. Ma bisogna chiedere prima, prima di accettare chiedi, questo qui è solo per la moto naturalmente, perché poi c'è il resto. Ecco, beh, scusa, la visa, il medico legale non gli ha dato il coso, loro hanno mandato prima per la moto, giustamente, Gianni. Come fa loro a mandare 425 euro per me, 5 mesi di coso, ma sta scherzando, no? E poi il legale deve, innanzitutto deve mandare la relazione, e penso un minimo una settimana ci voleva, capito? Loro nel frattempo prima hanno mandato questo cavolo di coso di acconto per la moto. Boh, vedi tu, perché questi qui sono balurdi, la tentano sempre, fanno sempre dei tentativi dati poco, prima la sparano, poi se accetti, se no magari aumentano. Vabbè, 400 per la moto, vabbè, te l'hai anche venduta qui. L'ho venduta anche bene, ci ho guadagnato, dai. Lo voglio che fanno la controverifica, poi buonanotte, non ce l'ho più la moto, che cavolo. E la moto non ce la devo vendere. Ah no! Ah, me la smetto adesso. Cosa devo vendere? Cosa devo vendere? Fin quando, a un anno, quando mi facevano la controverifica, no, assolutamente. Accetti, accetti. Letto come acconto, mi ha detto no, che poi la fine è peggio brunissimo. Cappa. E quindi vuole anche di questi soldi qua, vuole la percentuale, la parcella vuole l'avvocato di queste 400 euro, oppure ti chiede tutto insieme? No, la moto non c'entra niente, la moto è il danno che mi hanno fatto e basta, lei chiede soltanto la percentuale, è quello che danno a me. Io ho detto avvocato, a me per il danno che ho subito, 5 mesi, 50.000 euro va bene, lei magari mi ha detto, allora prendo anche quelli soldini io, perché più danno a lei più la percentuale è per me. A tal punto avvocato, sta bene lei, sto bene io. Aspetta lei. Cappa, la mattinata lì. Io. Che c'è avvocato di gas, ladri legalizzati sono. C'è anche Gavino lì. No, Bucito, non hai rilanciato, non hai detto niente che c'è Gavino, tu avanti Gavino, se non riprende. Comunque è stato onesto Natalì, questo avvocato, perché giustamente donna comunque. Ha detto, perché detto, ascolta avvocato, ma la devo pagare io. Dice no, dovrei pagare la situazione, mi dovrebbe, se non la paga, mi paga lì, aspetti. Allora vediamo un po', se la situazione non la paga lì. Lei quanto vuole? Facciamo una cifra X, 2.000 euro. Allora, a me quanto mi hanno offerto, facciamo la cifra X, che voglio molto di più, 20.000. Allora lei chiede 22.000 euro, perché 2.000 sono per lei, io vado sempre 20.000, ha capito adesso? Il concetto, sì, non si preoccupi, eh? Non comprendi, Io sono chiaro dall'inizio, quindi, non me ne fotti nulla. Lo gobbo già lì. Sì, ma mi ha detto anche l'avvocato, no, non è assurdo che sia per lì, 5 mesi per tutto quello che ha avuto, 400 euro, ma sono sempre chiesto, ma guarda che le caramelle vanno già comprate, per la moto. E io ho detto sì, ma la moto infatti non ce l'ho più, quindi conviene accettare, se no pulisce meglio. Infatti. Il copo già viene dopo. Ma speriamo che vada tutto bene, Tony. Sì, facciamo una bella festa, non ti preoccupare. Quando sono i soldini, altro che favata, Gianni di Vito il Brodino di Marmo. Ah, quello senza ombra di dubbio, a Gianni Brodino di Marmo gli facciamo mangiare, perché quello è un delinquente, mi. Ora gli facciamo uno scherzetto, vado da Nella Protta e gli piglio un canolo e due fettine, glielo metto in pezzo. Dai, ora c'è mai dentro di due, c'è mai. E tu fila via, vedi, se ti vedi da canchivi, non penso un brucchio. È strano però che da poco la pasta lo sarà presa la mattina, ci ha rinunciato, chissà come mai. Ci sarà sentito in colpa. Non usarci, vabbè. Lucio, che il PMR non c'è mai nessuno, Gallo. PMR non è grata a nessuno. C'era un tempo che lo usavano, poi è andato a diminuire e poi non è più nessuno. Vabbè. Andrà bene. Gavino, ci sei tu? È a moda, è Torino. Ciao Gavi, e questo Gianni, vedi, parla di tue altre cose, ma non metto che c'è anche tu in frequenza. A quello? Ah, te ne sei accorto, meno male. Brodino di Marmo da domani, Gianni, eh? Sì, via. Non ne mangio brodino di Marmo, io lo mangio o di carne oppure di dadi, il brodino. Una zuppa di varavatti, esatto. Esatto lì. Poi dice a me, non si può fare il cacio di dadi, ma invece di dessi tirino la peste. No, io grazie a Dio sono una persona abbastanza tranquilla, serena. Voi mi state mettendo in malizia ogni giorno qua al baracchino, quindi io non sono così. Sto ridendo, Mitturi, hai detto tutto il contrario di quello che sei, tranquillo e sereno. Caspita, e me se qualche volta c'è lo schizzo, perché colpa vostra mi avete fatto voi diventare così, io ero tranquillo, tu a fuori magna pasta con la crema, mi sa che difetto ho fatto. Oh ya, ma carità, meno male che non ti conosce bene, Gavino. Mi conosci per quello che sono, una persona abbastanza educata, genuina, caspita, non ho capito. No come. Natalia, vai, fatti presentare da Gianni. Ah, io non lo voglio conoscere a questo Gianni, no. Oggi virane con me, guarda. Oia. Gappa gappa, Gavi. Te lo raccomando a Tonino. Oia. Dodo. Mi sto guardando questo 747. Se non mi sbatta, adesso scappi. Ma quello che ti ho dato io? Sì. Com'è, non va? C'era una bombetta, lo stavo usando anch'io, quello lì. Cosa ne so di dire? Ti va, dovevo andare a San Fortezza. Avrai combinato qualche cosa tu? Cosa? Guarda. Qualche smalto di tensione. Qualche cosa che hai avvertito. Io nell'aria ho sentito così che hai combinato più pro quo e praticamente si è rimesso anche qualche cosa, a parte quello lì. Sì, anche proprio farmi dalla montagna, a caso. Con uno proprio farmi dalla montagna. Sicuramente qua c'è stato qualcosa di... Come la ferma, come la ferma, perché l'ho fermato da tutto l'anno. Io ripeto, roba trovata perfetta, non la nuova, grazie a Dio, funzionava bene, poi io ti ho detto, non è che tu non sei dato a rimanere, che dai grazie, ho detto, ho sentito nell'aria certe cose, si dice peccatore e peccatore, poi non lo so capire, giustamente. Comunque non penso che sarà, anche potrebbe essere lo smazzo di correttere, ma che alla luce quando ritorno ti dà il colpo di saetta, un po' più alta, e ti fa partire qualcosa, si è acceso. Io grazie a Dio spengo tutto quando non devo usare il baracchino, quindi, perché sono cose molto molto delicate, e quando c'è temporale sta cosa per pieno, lo metto in terra, te lo giuro. Sì, va bene, va bene. Quando le cose si iniziano nell'aria bisogna lanciare le ferro, capito? Perché quello che si inizia nell'aria va tutto, sono parole buttate al vento. Non c'è niente di così di te. Non c'è niente di te. Gavino che mi ha chiamato Boni, che ho un attimino al telefono. Sì, ha detto fanno una cosa del testo. Ho capito quello che mi dico. Non ho capito perché stavi parlando e sono scappato fuori perché però si tiene il baracchino acceso. Non so cosa hai detto nel passaggio. Ho capito che le cose dette nell'aria bisogna lasciarle perdere perché lo porta via al vento. Capito? Se io qualche cosa ce l'abbiamo aggiunta. Però sto vedendo qua. Perché è una resistenza. C'è una resistenza, così di quanto è la resistenza di volgare. Questa qua è la resistenza che è passata dalla M al commutatore, la M a SCD. No, per la sua stessa. Ma vai, signore. Senz'altro sarà quello lì, perché basta che tocchi il primo il tastino da AS di trasmettere AM, non mettere semi, potrebbe anche partire. Allora io ricordo tempo fa, non molto tempo, ma tempo fa, tu capì la baracchinetto che avevi portato fuori un apparato a usare, che poi seconda volta lo stavi anche vendendo. E io da lì ho dedotto, praticamente tornare nell'aria per non dire proprio fare pane vino vino, e da lì ho dedotto a Gittestano che Gavi ha usato questo qua e involontariamente l'ha messo anziché in AEMO SCB o viceversa, eccetera eccetera, sarà partito qualche cosa. Tutto qua Gavino, a me non mi dice niente nessuno di certe cose delle persone, tranquillo. No vabbè, la parola dell'HS, no, non l'ho collegato, non è collegato questo all'HS, anche perché si conoscono bene per l'HS. La testa ha avuto solo un ritorno di radio 60 anche, non so, c'è una cosa in alimentazione, però ho usato la falsa notizia. Qui l'hanno anche riparato, solo qua mi è arrivato. Comunque io gli davo soltanto un ingresso in AM quando modulavo di 4 watt, mettevo il galaxy proprio quasi a zero, mettevo dei watt di uscita e quindi gli davo un ingresso a 747 di 4 watt e in uscita non mi dava solo 80, non di più, perché da quel tanto lì. E grazie a Dio era un buon boira, perfetto. Ok, vediamo chi c'è rimasto. Natalici, sì, sì. Ma mi sto preparando a mangiare, dai. Vi ascolto, Tony. Ecco, andà bene. Vedi, sempre il suo vizio di mangiare, raga. Dovete smettere, raga. Poi si ingrassa. Avanti, Gianni, sì, sì. E ancora presto per mangiare. Io mangio verso le 9, buh. Prima porto il cane e poi mangio. E vabbè. Tanto la sera io non è che mangi molto, mangio qualche cazzata così, mi faccio due uova fritte o mangio un pezzo di formaggio, no, non cucino la sera, oh, sono con la rasura, cosa posso, a cucinarmi buono. Io ho le fave. Dimmi che diventi bredubavami. Tranquillo che poi domani facciamo le massate. Specifico sempre. No, non ho specificato, ho detto sotto le massate, potrebbe essere le massaterra. Oi oi. Vabbè. La finestra non è un tuo forte. Purtroppo sì, invece, vedi, sono una persona abbastanza genuina. Chi mi conosce, la verità, ti possono dire molte cose su di me. Persona corretta, molto timido, molto silenzioso, prendi una parola, ci conto fino a 200. Vedi. Va bene, va bene. Gabi, riprendi tu, dai, vediamo un po' cosa hai dedotto. Un casino perché? Così in generale. Quindi la resistenza partita? Sì, la resistenza di commutazione, dai. La resistenza di commutazione. Ma ce l'ho anche la resistenza. Così poi ci fa sapere, dovrebbe funzionare poi, dai, se parete con le esistenze si sa, sono molto delicate, capito? risposta l'ho sempre saputo, quindi basta un piccolo qualcosa che tracchede, si brucia. Anda bene. Sono fatte per quello, per non bruciarsi altro. Che vuoi vedi, queste resistenze poi o altre agenti che ho dentro, cioè ci sono dentro gli apparati o dentro le radioline, transistor diode eccetera, insomma, cosa una cazzata. E poi, quando vedo che tu sei profano a queste cose ti sparano anche un po' su di più. La mazza gliene scendono che. Ho male resistente questa notte sì io. Con pochi centesimi di un pareggio. Sì, ma lo dico, 2-3 euro, tu non li sai, paghi. Una resistenza, questa volta che a me una resistenza ti dura 8 ore di lavoro. Ma dai. Perché devi staccare tutto, devi spostare qua, spostare là, solo puoi danneggiare le altre cose a fianco, è un casino. Non agarrare. Devi smontare, secondo che cosa è, devi proprio smontare il circuito, staccarlo e girarlo e farlo da sotto. Quello non è lavoro, quello è manodopera. Considera che sono 18-20 euro all'ora. Che pagava? Noi ti faccio pagare un travaglio di 10 centesimi. Ma è lavoro di 10 centesimi. Però è come quando si... per cambiarti da una parte leggera in una mano, non è una parte leggera che sono nascosta, a volte sono tutte le tutte l'aria, cose, ci vuole più tempo a smontare tutta la roba che c'era sopra per cambiare la parte. Lo so, per arrivarci non è più come facevano le Renault che il motore arrivava da tutte le parti, l'R4 cazzo, era formidabile, si poteva lavorare in una maniera allucinante. E come ti si rompe l'ingranaggio della terza, della marcia nel cambio, brucerà una cazzata e poi devi svoltarti tutto il cambio e ci abbatti su subizzo, fa carità, e beh, c'è più manodopera, lavoro e altro. Poi se ricordate bene prima le macchine prima, ti si rompeva la freccia da dietro, ti davi due viti, la staccavi, la compravi, la mettevi, adesso è tutto un blocco, è tutto diverso, una cucchia di più, una mazza. Sì, anche per arrivare a cambiare la lampadina nei fari, è un casino. Prima toglievi il tappo, c'erano due mollette, toglievi il tappo, ponevi la lampadina, rimettevi le mollette, il cappuccio e fatti il riu. Io ho fatto cambiare la lampadina e ci ho rinunciato, sono dovuto dare l'amico mio meccanico a far benzina, bisogna far rende, la mano mia non ci passa, ma non devi trovare chi insegnare, la mazza di nessuno, un casino già, non ci passava la mano. Così nei posti più stretti, nei modi più strani, ma che si rapiglia a quel paese. Lo so, fanno in modo che non ci arrivi. Ci sono macchine che per cambiare la lampadina le devi smontare tutto quanto alla parte di davanti, lo sai. Addirittura. Adesso la macchina nuova che stanno facendo già, per cambiare il fusibile devi smontare anche la rotta di scorta. Non mi faccio lì. Così mi sto sempre sotto, sono al lato sinistro della guida. Dentro il motore sono impossibili, le metterò lì. Ma che dai, ma oggi non c'è quasi nessuno, la Natalina ha fatto a Corix perché sta per vedere il mangiume e niente, non c'è più nessuno oggi. Vabbè, ci siamo noi. Ecco lì prendete 12 massoni a Muganare. Ma dipende dai giorni, magari c'hanno da fare o stanno lavorando, che ne sai. E io mi accontento sempre. E cappa. Niente, ho acceso la radio, ho messo tutto il volume, sono uscito fuori, ci ho fatto che sono in discoteca, a Bari, non fuori, ho abbassato, vabbè qua non c'è nessuno che disturba qui. Qual è il radione? No, quella radio che ho sopra il mobile, dove c'ho l'apparato. Il radione è sempre sotto il letto. Quel radione dovrebbe toccare bene, ma tutto funziona. Tutto Gianni. Non l'accendi mai, che quello lì soffre. Sì, ma se c'ho quest'altro serio cosa posso? 50 radio in comincio, bongo. Cos'è? Una discoteca qua. Poi posso pagare un biglietto allora. Io tutti i canti discoteca da Tony Chicco. Te l'ho detto, comprati un carrellino per la macchina, carichiamo tutto e andiamo in Piazza d'Italia l'ultima domenica del mese, vedrai che si vende tutto. Allora si può che fare, c'è roba nuova di zecca con la scatolata, c'ho anche la pulivatorvi. Quindi, c'ho la saldatrice nuova, mai usata, pensa un po'. Poi, la sega circolare nuova, c'ho il cattuzzo. Cattuzzo è un seghetto alternativo gigante, ancora ho tagliato l'albero qua, un'altra sono usata. ed è buona. E poi lo parliamo di tutta l'altra roba che ho. Per voi, magari dai, guarda, non compro più niente già. Infatti, stai accumulando da voi, non c'è di bulettina. Gavi, ma te le immagini questo turno? Ci ha fatto anche la casetta per mettere le attrici e non c'è di più nulla. Neanche io un bel lavoro. Anche io e... Vabbè, io sarò... Ragazzi, cioè, sono tanti più che io provo a collegare questo affare. Eia, cambiatele. Sì. Visto cosa ci voleva. Forse era in un punto buono, dai. E adesso vediamo. Ma la stessa valenza ci aveva. Forse sta collegando. Comunque, io... con quell'alimentatore cinese 25 ampere posso attaccare 2-3 baracchine, li ho attaccati quelli per i tre cani, già, e va bene. Io ho quello 50 ampere, però non è dei cinesi, vabbè, penso che sia fatto in Cina lo stesso, non lo so. Io ne ho fatto l'interruttore tu lì sopra dove c'ha le alette, ne ho tagliato due alette e ho messo l'interruttore lì, ho fatto e ci sono tutti i fili interni, non si vede nulla. E praticamente 50 ampere mi pilotano 300 watt. No, io sto usando quello armato Ginko, quello 32 ampere, e quello va benissimo. E poi, niente, ho procurato un altro alimentatore da 12 ampere e se poco bisa, enorme. Guarda, per adesso 12 ampere è stretto, me l'hanno regalato e funziona bene. Prima, la prima cosa che ho fatto, ho toccato la spina, cioè non c'è la spina, ho toccato la spina, provato e accendeva, proprio sul destro, ha funzionato, 12,8, oh, perfetto, funziona tutto. Ma quello va bene per baracchini da 5 watt, 12 ampere sono pochi. Ma io faccio 23 canali che sono 5 watt, capito? Quindi va bene. Ah, per quelli sì, ma grande. Non è grande come quello che tu hai dato a me, no, però è un bel pesante, c'è un bel arretore di raffreddamento dietro, poi ti posso dire, buono dovrebbe essere 12 cm di larghezza per profondità sui quasi 30 cm. Vabbè, se va bene tu dici, per usarti quelli da 23 canali, se va bene, usalo. Ma quello che ti ho venuto io è tornato a casa sua, No, quello che tu mi hai venuto a me, no, c'era quella persona che l'ha dato, capito? È tornato a casa sua, prima era il suo, io dopo il mio, dopo l'ha aiutato a te e tu l'hai fatto tornare a casa sua. Eia. Niente, comunque ho la ciabatta piccola io. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Almeno 10 ingressi devo avere, raga. Infatti sto usando 3 alimentatori, che c'ho il quarto alimentatore non posso attaccarlo, e qualche altro ricevitore non posso attaccarlo perché mi manca una presa. Una presa anche per quello lì, ho attaccato lo stereo, e vabbè, pazienza, dai, pane, pane. Ho messo anche le luci, ho messo già quelle con le adesive, quando c'è l'interruttore già si è tutto illuminato, bello. A me Tonino, sono sfigato tutti quanti, queste ciabatte mi si rovina il tasto per accendere. Oh, fa ogni volta è uscito. Ne ho cambiato, ne ho preso anche che costano, cavolo, ne ho preso dai cinesi, poi ne ho preso che costano, ne ho preso da Italy, insomma ne ho cambiato un po' di posti, si rovinano sempre le interrutture. Basta fare una scatola in plexiglass come voi, plastica, ti fai un riquadro, tu ti metti tutte le prese buone, però giustamente un bel interruttore bipolare sei a posto, dai tensione tutte le prese, un bel interruttore che ti funziona il bipolare sia da interruttore, capito? E niente, e così ti dura, metti un cavo da 2,5 perché se tu apri la ciabatta già, c'è il cavo da 0,5 fino, un mediente attacca pure il soffetto a 2000 watt e si scioglie. A me me ne sono sciolta una tempo fa, ho detto oh basta, no? Io ho fatto una ciabatta quando scendevo al circolo con lo stereo, tantissimo doveva fare il carnevale, e ho fatto una ciabatta in legno grande, contatto di capo da 2,5, e è durata anni, è durata, e poi era tutto smontato, finito. Vabbè, ci certo, se te la fai un'altra cosa, la fa artigianale, la diventi un cavo grosso, ma non è proprio il cavo, secondo me è l'interruttore che si imballa tu lì, si imballa la molla dell'interruttore perché si sente la corrente che, capito, come tu vai a premerlo, si accende e si spegne. Sono interruttori al Menga, le fanno in Cina, mio Gianni, sono interruttori piccolissimi, quindi sono delicati. Cosa fai? 20, 30, 50, 100, accendi e spegni e poi partono, capito? Quindi non è che tu fanno granché. O meno che fai prima per non toccare l'interruttore che è delicato, sacchi la spina e togli la tensione di tutta la ciabatta e buonanotte, per non toccare l'interruttore. Vediamo se Gavino ha fatto il tutto. Gavino? No, sta ancora forse collegando. Capito già? Purtroppo è così. Se tu apri la ciabatta ti spaventi, i fili sono talmente fini, è un baglietto da cobba di roba. Vabbè, noi non ci fa niente perché il baracchino sai benissimo che non ha tutto questo assorbimento, capito? Quindi, con quel filo là puoi attaccare a 750 watt, 700 watt, 500 watt, va bene, dai. Il baracchino questo manco ci arriva perché sono 12 ampere, chi 10 ampere, chi 5 ampere, anche sono 25 ampere non fa nulla. È poco l'assorbimento che ha il baracchino, quindi lo puoi usare tranquillamente. Ma se attacchi di roba di stoffetta, la gabili, anche se ci di tutto. Io ho una scuola, auxili, la segretaria le sono sotto due ciabatte. Se vedi com'era il mobile, guarda, da spavento, sciolta, si è anche incollata addirittura. Ho detto, ma sta scherzando? Dopo roba ha attaccato qua, computer, chiede che d'acqua. E infatti ho fatto il cartelletto, con tanto di cavo 2,5, è rimasta così contenta, ha detto, adesso lì è tranquillissima. Gli ho messo anche la canaletta capestabile, che è fatta scivolo in ammirino, ma bella i cavi dentro, un bel lavoro, è rimasta contentissima. Queste cose qua, se usi le ciabatte li carichi troppo, ma se ci sono le prese, scusa, dovrebbero resistere, invece se non stai attento ti fa partire qualche cosa, non te ne accorgi nemmeno, se non sei in casa ti brucia tutto. Ma allora, le prese che cambiamo in casa resistono, sì, se l'impianto è fatto a regola d'arte, Gianni. Giustamente la ciabatta che ti vedono i cinesi, se uno va a controllare, ci devono scrivere pure massimo 500 watt, e boh, invece non lo scrivono, uno mi attacca, attacca, attacca, attacca, è ovvio che poi non ve la vazzi più. Guarda, lì c'è una ciabattina che attacca soltanto, con quegli avviso, con i condizionatori piccolini per casa, 2000 watt sono, lo attacco 2 minuti e poi lo spengo subito, tocco la ciabatta bollente. E quindi, lo so già, perché là devo cambiare tutto il cavo di alimentazione. Già addirittura il cavo che era messo dal quel condizionatore piccolino è da 1,5, è già sbagliato, almeno 2,5. Perché 1,5 ti può reggere 1500 watt, quelli 2000 watt. Ci sono molte cose che tu se guardi, cioè già, non sono tutte perfette, controlli purtroppo non ce ne sono, mi devo darte. Solo tu che sei del mestiere, sai queste cose, vai, controlli, dice no, questo non lo prendo, prendo questo, capito? Ma uno che è profano non lo sa, lo compra. Certo. Gavino, è risolto. Dico anch'io, Oh yeah, 24, dai, 10 minuti ancora e poi ci prepariamo la favuzza. Sì, ce l'hai pronta, cosa devi preparare? Devi scaldare le bucche. No, che ancora ti... Stamattina c'era 2 ore al fornello. E allora cosa devi fare? Se no devi solo ingurgitare e basta. Ma quanto te ne hai fatto? Un pentolone. Un pentolone già, in acciaio, grande. Io sempre gli faccio il brodo oppure la favata, eccetera. Niente, poi quando ho spento il gas, che verso le 7:15 era già pronto, ho detto messo, mi appoggio per letto che è presto, mi affiago di qua, metto dal gas. Niente, poi mi ha vestito e mi sono appoggiato, ovviamente, perché poi alle 10:30 sono venuto uscire ad accompagnare mia figlia. Gamba, gamba. Ma oggi sei... c'è Monica stasera? Dovrebbe esserci. Non mi ha chiamato ancora. Se viene, lei viene a 8:30. Gianni. Avanti. Gavino. Guarda un pochino, fatto così. portante bianca, guarda il segnale, guarda portante, cioè adesso portante bianca è parlato, ola ola ola, allora, metto la scala, ola, ola, chi? Ma l'hai attaccato? No. Prova a attaccarlo. Io ho visto Gabriele, la Santiago Nova a 9.10, picchi positivi a 9.15. Ok, adesso sono attaccato, guarda un po' Gianni se cambia qualcosa. Ola. Sì, sì, sta andando. 9.20 qua adesso. La radio è migliorata. Sì, sì, va bene Gabriele, va bene adesso. Lo vedi? Tonia, lo vedi? Beh, c'era una resistenza, giustamente, nel petto ce la bevi, nel cambiato è fatto bene. Non sono, ripeto, sono delicati, capito, Gavì? No. Ma il fatto è che queste cose qua, anch'io ce l'ho sempre avuto, però... Non so, una soldatura... No, non era rotta la resistenza, era una soldatura fredda. Cioè, illuminami, saldatura fredda, cioè? Una saldatura attaccata. Ah, e come ha fatto a staccarsi, se non ho capito? E c'è agire anche all'interno. Prende, sono fatto con quelle saldature brutte, Turin, che non sono belle lucide, sono opache. Dai, roba di usura, può capitare, le saldature prendono anche con lo... col funzionamento, prendono, si scaldano e si staccano e perde la sua capacità... diciamo a essere stagnante, lo stagno si usura, capito? E beh, ci ha pensato dopo tanto tempo, se mi funzionava di logica, ma te ne genisci. Io non vuol dire quello. A volte anche scaldando, a me mi è successo nel televisore, capì? Non funzionava più. Ho controllato, visto questa saldatura fredda, ho provato a rifargliela. Ho fatto la saldatura e manca un bombo. E mi è successo d'estate, probabilmente come scaldano, come scalda il televisore d'estate, si sciolgono anche. È positivo, sì. Quindi va bene già come radio. Lo sai quanti watt di sto, quanti con la portante da un watt e mezzo, lo sai quanto sta dando? In tutto sta dando 80 watt, e modulati 50. Sì, sì, e a me mi dava più o meno quel tanturino stesso, capito? Quello lì è un buon lineare, piccolino ma sincero, io lo usavo in macchina, già l'hai visto come uscivo. Sì, da dei 10 dB di guadagno, da. È buono comunque. Va bene, la radio è aumentata, sì? Per me sì. Sì, sì, la migliora la radio. Come dal giorno alla notte, capito? Non c'è paragone. Da come uscivi poco fa, come stai uscendo adesso? Sì, Natalì, confermi anche tu? Sì, signore, è tutta una fragosa. Si dice, è tutta un'altra gubba. Tutta un'altra gubba. No, perché per fare queste cose qua devi trovare anche l'ispirazione, capito? Ti devi mettere un attimino a guardare, perché se lo fai con la fretta non risolvi niente. Oh, la pressa no, assolutamente non risolvi niente, no. Quelle saldature fredde così non fanno contatto. Una volta che gli rifai la saldatura come si deve, allora riprende a fare contatto. Sì, sì, infatti, ma è roba di usura, non è roba di difetto, è roba di che si fa con l'usura col tempo. Infatti. Come ti dicevo, la iatolina, la Bressa ha fatto iatolina in cicchia. E proprio così, con la Bressa non conclude niente, Doni. Ha ragione, Gabriele. E fa mai così proprio. Io mi ricordo quando ero all'Istituto d'Arte Alghero, dovevo fare una deviata, che è la cazzata più grande del mondo. Beh, stavo lavorando per collegare e me ne trovavo questi ragazzi, entravo un scivolo, apri la porta e chiudevo, mi hanno rotto le balle e non riuscivo mai più a collegare. Sono andato in palla, ho chiamato il mio collega, scusa, fa una cosa, mi trovate la porta, non fatela nessuno, perché ha bisogno, dice ancora così, se mi sono rotte le balle mi distraevo, capito? E quindi purtroppo ci vuole la calma, serenità e tutto quanto, è così. Quando si è messo l'altra porta, 2 minuti o 2 fatto, per carità. E così tutte le cose ci vuole la calma, uno se va fressa non si muove ne manco, anche tanto quasi casino e buco. Calma è la virtù dei forti. E E poi puoi fare danno mi su quelle cose con la fretta. Giustamente, anch'io Gianni, vedi, la fava me la mangio con calma, senza fretta. Provare dare. Occhio che non ci appesante la notte di tu. Già mangio i salamini e la pancetta che è buona, mamma mia, si scioglie in bocca già. Di notte pesante. Non è che faccio una camminata che faccio dentro casa. No, io digerisco tutto, grazie a Dio, già mastico bene, io ne ho pazienza piano piano, che voglia. Ho al limite impegno un po' di brioschi e mi aiuto a digerire. E occhio al temporale, me lo bambui mi sanuti. Ma temporale dove? Di sotto? Dai tutta! Comunque, fate scherzi, quando c'è temporale io, siccome sono in campagna vicino agli alberi, allora stacco sempre l'antenna, fate scherzi, la metto in terra, il PL, do, arrangiati, perché è pericoloso, in campagna specialmente i fulmini sono un bel pericolosi, prima che mi rovina qualche cosa mi si brucia la casa al muro, e mi si brucia il muro a me che mi girano un rito, no? E poi divento calimeroga. Gianni, dimmi Gabri. Tu quanto ce l'hai regolato il tuo microfono, le 24? Era al massimo. Ok, allora questo qua, guarda, questo qua è al 2. Questo qua è al 2, adesso lo metto a metà. Pronto? Ora. Adesso è a 5. Lo metto a 6. Sta trattando. No, negativo. Lascialo così a metà, anch'io ce l'ho a metà le medie più 4, Gavi. Ma tu la valvola, ma la valvola, la capsula l'hai cambiata la cal... Ehi, questo è tutto modificato. Sì, già, mandagli, non lo so, ce l'hai tu il numero di Natalino già? Sì che ce l'ho. Mandagli la fotografia del mio MB più 4, te l'avevo mandata, te ce l'hai ancora? Non lo so se l'ho cancellato. E comunque, Natalino, ma a te chi te l'ha fatto, Adriano? No, io l'ho fatto. Io ho la capsula del Tarre più 3, mi pare che vi la bruva, vi decidete se andava. Natalino, ma questo MB più 4 cos'è? Della ZG? Ehi, questo qui è il microfono da tavolo della ZG. Però quando è normale non rende come questo qui. Gli ho tolto dalla capsula quell'affare che c'è per di ferro, di metallo, no? E gliel'ho tolto da mezzo alla capsula e l'ho riempito di cotone. Poi gli ho modificato qualcosina nel circuito ed è una bomba confronto a quello normale. Ne ho regalato uno a Antonio di questi microfoni, perché ne avevo due, no? Questo era in scatola, l'ho preso, me l'ho modificato, e l'altro l'avevo dato a Antonio. Sì, ma Natalì, quella capsula è talmente perfetta, non c'è nessuna vite dietro, perché io me lo ricordo quel microfono lì. E come ti dice la capsula, chi viene a barabola, è in castro, eh? Ah, va, che c'è un affare di plastica, tiri quello e ne esce tutto, ne esce, cosa ti intendi, Doni? Io mica ce l'ho preso, ho detto, come mi ricordo io vagamente, mi ricordo che sì, c'è dovrebbe essere una cosa plastica, quindi la tua plastica dice via tutto. Ehi, e c'è un affare lì di metallo tondo attorno alla capsula, quello io l'ho tolto e l'ho riempito di cotone per non fare l'effetto brutto che fa. L'ho riempito di cotone, il microfono e la capsula è in mezzo al cotone. Non ho capito. Vuol dire, se mi capiterà in mano uno di quelli lì, ci proverò anch'io. Vabbè, comunque, con questo SME la mia radio è buona, la tali. Di lusso, va benissimo. E lascio questo qua. Avanti, Gavi. Sì, positivo. Natale io gli ho messo... l'ho tutto modificato, gli ho messo l'asta, invece ho tolto il suo, diciamo, il suo braccio, gli ho messo un braccio a giraffa e gli ho messo un microfono Shure. Poi l'ho fatto attivo questo microfono, la base, invece di mettere la batteria gli do 9 volt di corrente sempre continua, in modo che non si abbassi, diciamo, che non si abbassi la tensione in batteria, e invece basso il radio, capito? Me l'ho fatto attivo. E niente. e già sale già, ma è il giovane. E capite? Adesso ho provato a dargli una... Adesso provo a dargli una cordata, perché c'ho lo strumento attaccato, provo a attaccare lo strumento a vedere e a lasciargli solo un ponte, perché ho radio, amplificatore e strumento. Adesso provo a toglierlo e vedere un po' se cambia qualcosa. E provo a vedere. Comunque adesso la radio è buona. La tua c'è forte da lì. Ok, aspetta un attimo. Perché Gabino mi ha fatto mettere il macchine a manetta dell'apparecchio del Superstar, se no io lo tenevo sempre a metà per non disturbare, se no si sentiva più il televisore che io. Adesso è spento, no? Però c'ho il macchine a manetta e il volume del microfono è a metà. E come ce l'ho regolato io e Natalia? E così funziona, beh. Sì, guarda, se lo lasci così da me arrivi forte, da me sta arrivando forte, proprio la radio è bella corposa. Poi sono distante almeno mezzo metro dal microfono mio, ho allungato il braccio perché il microfono ce l'ho lontano da me. Sì, ma io l'avrei lasciato così, Natali, tu non lo so, vedi tu, la radio è la tua, però almeno qua, nelle audiocoteche arrivi proprio bella, la radio è bella, bella bella. Già, anche tu mi stai arrivando bene, anche tu mi stai arrivando bene, però le MB4 l'altro giorno eri, se mi avevo un HF. Adesso sono con le MB4, Gavi. È positivo. Aspetta un attimo, fai passaggio. Guarda, non lo so come sta uscendo, questo qui è l'MB+4. Ha intero Mattesi. No, già vanno bene, già vanno bene alla grande, vanno bene alla grande. Aspetta un attimo, devo guardare un attimino, quando è attaccato mi dà 1,3 di stazionario. Ma capì, va bene, dai. È così che deve andare, anche a me da fa così. E non è nulla 1,3. No, quando è attaccato non è nulla 1,3. Fino a 1,5 ci siamo. Sì, 1,3. A terra c'è una bicu. Faccio vedere. Ora. No, però in modulazione mi sta dando qualche picco negativo. Ora. No, è lo stesso, prova a cambiare. Prova a mettere il diamante di strumento. Ho anche il Turner più 3 io qua. C'ho un MC60, una V508. Come microfoni già ne ho. Natalia, come ti arrivo io a te a insegnare? Fai 1, 2, 3 prova di modulazione. Guarda un po'. 9,20, sì. Guarda adesso. Com'è? Più basso. Addirittura. E così? Ma non è variato niente. Dunque, la radio non la disturba, no? Anda. Tieni presente che il Superstar c'ha lo smitter a varo, Ok. Ma la radio è più forte, Staccato lo strumento. Quindi, così... com'è? Così è più bassa. Ok, adesso è attaccato. Ora, guarda un po'. E già si vede anche dal segnale. Perfetto. Dai, lasciamo tutto così allora. Lasciamo così che questa cosa qua mi va bene. Grazie per i controlli e della pazienza che avete avuto. E figurati. Io ho anche il Turner più 3, se vuoi te lo faccio sentire attaccato qua a me, che c'ho una prolunga e posso attaccare il Turner più 3, poi c'ho anche un MC60 e una V508 come microfoni. prova al Thunder più 3 a vedere. Aspetta, quello grigio è quello che è scritto in inglese. Aspetta un attimo che lo prendo. E qual è quello con la scritta blu? Thunder più 3, non è su Tensidri, che è quello, diciamo, sul grigio scuro con la scritta blu. Ehi. Oh, ragazzi, 19:42, io le fave mi stanno aspettando. Signore Milli, vi saluto e vado a fare scarica. Ciao Gavino, ciao Natalino e ciao Gianni. Buon proseguo, ciao ciao. Ciao Tony, ciao Tony, ci sentiamo domani. Ciao Tony, ci sentiamo. Ciao. Avanti Gavino. Sì, c'è Natalino che sta prendendo il Tanne più 3. Anche il Tanne più 3 è bello il microfono, è già. Io ce l'ho la capsula, se voglio qua la metto, capito? Ce l'ho la capsula, ci sta anche, l'ho provato e ci sta. E mettila, cioè è tutto riguadagnato. Se va bene così, chi me lo fa fare? Non l'ho tolto manco la lamiera che hanno detto, io non ne ho tolto la lamiera. No, vabbè, quella non c'entra nulla, però se puoi mettere una capsula diversa, magari cioè, hai due punti in più. Così male va? Assolutamente no, va benissimo, a me piace. E allora, accontentiamoci. Sto a fare. L'altro giorno stavo cercando di saldare il filo e non attaccava, non capisco perché. Ho pulito la punta, ho fatto, niente da fare, non saldava. Non lo posso attaccare il Thunder più 3, gli avevo cambiato i contatti per metterlo sul 23 canali, vaffanguala. Ho capito. E vabbè. No, ma guarda Natalia, adesso, cioè io l'avrei lasciata così, poi non lo so, fai come meglio credi tu, però te l'ho detto già dall'inizio, che va benissimo. Sì, questo è il microfono che ho lasciato per questo superstar. Il Turner l'ho adattato a un 23 canali di quelli antichi. Sì, ma l'avrei lasciato così qua. Va bene. Adesso mi manca anche l'altro alimentatore, se no te l'avrei fatto sentire sul 23 canali. Ne ho uno solo alimentatore qua. Vabbè. E io mi dovrò prendere un altro alimentatore di questi qua switching, cioè lo sto usando un alimentatore a switching questo linearetto. E andavero Mattes, io già ce l'ho prestato all'alimentatore perché mi stanno aggiustando quell'apparecchio, me lo stanno mettendo a posto, quello dell'MC60, tanto per intenderci. E quindi gli ho dato l'alimentatore perché quello che aveva lui non andava bene. Ah, ho capito. No, io questo qua l'ho preso, questo alimentatore qua da 18 ampere l'ho preso dai cinesi, quello dove c'è Cisalfa. Ah, dicevano questi alimentatori fischiano, fanno. Gli ho toccato il trimmer, gli ho attaccato il tester, l'ho portato a 13,8 volts, anzi bugia, l'ho portato a 14 volts, e grazie a Dio fino a oggi mai problemi. E non sono tutti perfetti quegli alimentatori lì, no. Io ne ho due da 30, una è da 35 e questa è da 30, mi pare da 32. Sono switching, però sono quelli seri, là, con gli strumenti e tutto, sono grandi. E io uno di quelli me lo devo prendere, uno di quello me lo devo prendere perché quelli sono belli, 30 ampere sono belli. E uno è da 35 ampere, quello che ho dato a quell'amico che mi sta allineando quell'apparato là, che è scoppiato qualche condensatore, capito? Ho capito. No, io con questo superstar così mi trovo benissimo, perché gli ho portato, ripeto, i watt bassissimi, perché dovevo portarlo con questo linearetto, ho detto così, anche con una quarantina di watt, poi esci tranquillo, senza sforzare, mi segui. Però non stavo uscendo, ma adesso se me ne stai andando. C'è una questa saldatura fredda, ve l'ho fatta un attimino. Allora, sta andando bene. Garbì. Tutto ok. Invece io ci metto a posto il carne, perché me l'ho staccato, perché non ne posso usare. Mi si è rotto il commutatore, quindi non posso fare nulla. Il commutatore d'antenna o un dive. Mi si è rotta una letta, non funziona. E quindi non posso annullare. Dovrei staccare il tutto per poterne mettere i 23 canali, capito? Sì, ho capito. E mettilo a posto, metti. Facciamo riprendere a Gianni. Gianni, ma sei uscito dal vulcano? No, ancora non sono uscito, dai, fra un po' vado. È già tardino, è già venuto a chiamarmi. E lui sa l'orario, è come un orologio. Quando è l'ora, viene subito e comincia. Poverino, magari deve fare bisogni. Ma deve fare bisogni. Adesso mi riordino un pochino qua io lo stesso. Io ho fatto un po' di bordello per fare questo lavoro, però. Avevo tutto pronto. No, lo stavo guardando da poco fammi. No. E vabbè, te la sei mettersi, visto, ce l'avevi, non lo stavi usando per una fesseria. Uno quando si mette, poi se ci riesce, dai, quando ci riesci canti vittoria, poi no. Devi trovare il momento che sei tranquillo di testa, in tutto, che ti viene l'ispirazione, dai, perché se ti metti che c'hai fretta, lo vuoi aggiustare per forza, non ce la fai, e non lo trovi perché sei arrabbanato. La consalva e non la gatti, invece quando non ti interessa e sei tranquillo, sei in radio, ti siedi, ti guardi un paio di cose e infatti sono riuscito a vederla, mi segui con la pintettina, la muovi e te ne accorgi. E poi aumenta anche la radio, una volta che tu attacchi aumenta la radio a dismisura, è doppio di lusso quello lì. A Carlo, che sono andato una fredda così, basta controllarlo bene, con pazienza. Sì, infatti, ci vuole pazienza. Beh, infatti, l'altro giorno ad Antonio, cosa gli ho detto a quello che è entrato, diciamo, il tecnico, ho detto, me la giusti, è un casino, no, che non lo fa. Invece me l'ha giocato io. È arrivato prima. È abbastanza. Adesso... Certo, c'è anche altri tipi di lavoro sotto le mani, capito? Fa cancelli, fa tutte queste cose, cancelli elettrici, tutte queste cose qua. Quindi poco tempo c'ha, va fuori a lavorare, per cui non ha molto tempo, dai. Sì, vabbè, ognuno fa quello che vuole, non è che mi interessa più di tanto. Quindi già non strappa così con questa regolazione, però ho messo un altro pochino, sta strappando adesso. Adesso l'ho messo a 7, sta strappando. No, negativo, capito, va bene. Adesso è a 8. Adesso ho messo il volume a 8 e sono a 20 cm dal microfono. Sono a 20 cm dal microfono. Io adesso sono un braccio, guarda. Sì, va bene, capito. Va bene, lasciamolo così, perché l'altro giorno Carlo mi aveva detto che era diciamo una voce un po' compressa, mi segui. Ma la tua voce, sei tu che hai la voce baritonale, capito? Sì, infatti. No, vabbè, lo lasciamo così che va bene. Uiuia. Ma sono già le 8 quasi. Porca miseria, oggi è volata, È volata, sì, vabbè. Interessante stare tranquilli, là. Meglio che voli. Vabbè. Oggi è andata così. Oggi perché siamo entrati tardi. Eia. Oh, già, lo sai che stamattina ho fatto una scappata di là a Rizzetto e mi hanno rinnovato il piano terapeutico. 10 minuti ci ha messo. In pratica non me l'hanno rinnovato quando ho chiamato, perché c'è la mia dottoressa che è in malattia, capito? Me l'ha rinnovato un altro dottore dal mio codice fiscale, me l'ha rinnovato subito. Infatti poi mi sono avvicinato a Sorso e mi sono avvicinato in farmacia e mi hanno ordinato tutta l'attrezzatura. Dottor Frese te l'avrà fatto. Sicuramente, dice che non l'hanno fatto perché la dottoressa mia era in malattia. Ma allora in queste occasioni qua te lo fanno. Io adesso domani vado a fare le analisi e poi le mando l'email con le analisi fatte, poi lui mi dirà quando andare, capito? Sì, e beh, io ho detto che volevo prendere l'appuntamento, però mi ha detto finché non rientra lì non possiamo prenderlo. Mi chiameranno loro e mi diranno quando entrerà, quando andare. Tu ci avrai quella chiamata lì? La congiuro io. È la stessa dottoressa mia, malattia, Sì, Natalia, è malattia perché doveva rifarmi il piano terapeutico, però non me l'ha fatto perché era malattia, sono andato stamattina a Rizzendo e me l'ha rinnovato un altro dottore. E meglio così, l'imputante se l'ha già rinnovato. Sì, ma ci ha messo proprio 10 minuti. E entrano col computer, via, se lo rinnovano e... Va bene, domani mi ritiro tutto in farmacia. Oh, me l'ho ritirata oggi, anzi, balla mia, ieri. Sì, noi io domani mattina. Aspetta un attimino, già che stacco qua l'alimentazione, che devo attaccare la ventola in questo amplificatorino. No, aspetta tu un attimino, io me ne sto andando. Sono a portare il cane, dai. Ci sentiamo, grazie per il QSO, buona serata, saluto anche tutti gli ascoltoni e buona continuazione, dai, ciao a tutti. Ciao, già a dopo, io dopo cena già sono in radio. Vabbè, tanto oggi non c'è nulla al televisore, penso di accendere. Io purtroppo non posso accendere a chi di più baghito di sopra. Vabbè dai, vi saluto che è già passato l'orario qua, se no magari mi telefona a smettere. Va bene dai, saluto tutti, anche gli ascoltoni, ciao Gabi, grazie per le quattro chiacchiere e anche a te Gianni, buona passeggiata col cagnolino. Via, ciao Natali, dai, già ci sentiamo alle prossime. Buona serata, buona cena e buonanotte. Ciao. Faccio 24, e vabbè, lo avviciniamo a meno di 160, 140, 160, ne faccio 24, la mattina mi alzo che ce l'ho a 102, 103, a volte 90, però io infatti, guarda, io ho la pizza, se mangio una pizza super condita ne faccio 12 al massimo. Vabbè, tu quanti anni ce l'hai il diabete? 8 anni. Io ce l'ho 17 anni. Già, vabbè, io però conta che faccio anche molto movimento, già, conta quello che io sono tutto il giorno facendo, addirittura in stagione a volte io la notte neanche ne faccio di quella notturna, perché smaltisco tanto, sono tutto il giorno in movimento, quindi... ho provato e mi ritrovavo facendone anche 15-16 unità di notturna, mi ritrovavo a volte la mattina con la glicemia 60 al risveglio. E io prima faccia ne facevo, adesso un po' di meno, ma già lo faccio anche il movimento perché vado a portare il cane, il cammino, capito? Quindi vado a farmi la spesa, non è che non è facile.